Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e benvenuti sul nuovo Ferry Boat, il traghetto che vi porta in viaggio verso l'economia sociale tra appuntamenti e gli eventi del weekend. Parliamo di terzo settore e di responsabilità sociale dell'impresa. Scade oggi, a mezzanotte, il termine per la presentazione delle idee di impresa candidate al progetto Donne e Lavoro. È un'iniziativa della Fondazione Vodafone di Donna Moderna che premia con 300.000 euro le migliori idee di impresa sociale al femminile. Sono tre gli ambiti segnalati che servono da riferimento per chi vuole partecipare al concorso: solidarietà, web, casa e lavoro. C'è ancora quindi tempo, c'è solo qualche ora, ma potrebbe bastare. Vi segnaliamo l'indirizzo www.progettodonnelavoro.it per partecipare all'ultima ora. Si conclude ad Aversa oggi il Forum Nazionale sulla Salute Mentale. In realtà si parla di ospedali psichiatrici giudiziari che, non è così scontato, esistono ancora e ospitano 1.500 detenuti, che è il numero più alto mai registrato in questi 20 anni. Obiettivo dell'iniziativa ad Aversa è individuare, indicare, analizzare, sviluppare pratiche e strategie per chiudere questi ospedali e valorizzare la funzione dei dipartimenti di salute mentale. Per inciso, ci sono anche 25.000 detenuti affetti da disturbi mentali che sono rinchiusi nelle carceri e che non bisogna dimenticare. Per informazioni sul Forum Nazionale sulla Salute Mentale, il sito è www.news-altoforumsalutementale.it. Ultimo giorno utile per visitare la mostra sui bambini sniffatori di colla. Una tragedia ovviamente toccante e impressionante. Managua, San Marcos, e questo è il titolo di un racconto in immagini di grande formato che racconta dei bambini che vivono proprio sulle strade di Managua in Nicaragua. L'esposizione è al Centro Tutela Consumatori di Trento. Domani al Cinema Astra di Misana di Attico, la produzione è un evento cinematografico tanto eccezionale quanto singolare. Zeitgeist Moving Forward è un film, un documentario, il terzo della saga del regista Peter Joseph. La produzione avviene in anteprima contemporanea mondiale in più di 60 paesi e in 20 lingue. La singolarità sta nel fatto che non è distribuito dalle grandi catene commerciali, ma nasce dalla collaborazione di migliaia di volontari. I primi due capitoli hanno registrato milioni di spettatori online in tutto il mondo e hanno dato vita a un vero e proprio movimento d'opinione che apre il dibattito sul cambiamento dell'attuale paradigma socio-economico. Il trailer del film, per chi vuole approfondire l'argomento, è all'indirizzo www.zeitgeistitalia.org. www.pianiaccessibilità.it è il sito di servizio realizzato dalla provincia di Pistoia rivolto al personale dei comuni della provincia impegnati nell'elaborazione dei piani per l'accessibilità, in buona sostanza per costruire spazi senza barriere nelle città. Laura Tesi, responsabile del servizio politiche sociali per la gioventù della provincia di Pistoia, ci spiega come funziona questo portale. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vorrei dire che il sito www.pianiaccessibilità.it è una delle azioni previste dal percorso di sperimentazione dell'indirizzo operativo per l'attuazione dei piani per l'accessibilità, che vede la collaborazione tra la provincia di Pistoia e la regione toscana ed il coordinamento scientifico del centro Tesis dell'Università di Firenze. E il TISO in primo luogo supporta gli enti locali della regione toscana nell'elaborazione dei piani per l'accessibilità attraverso la messa a disposizione di strumenti operativi finalizzati alla redazione del piano per l'accessibilità ed un servizio di consulenza tecnica online che fornisce risposte ai quesiti formulati in materia di accessibilità ambientale. Il sito inoltre contribuisce alla diffusione della cultura dell'accessibilità mediante la segnalazione di nuove disposizioni normative o modifiche delle disposizioni vigenti, di iniziative ed incontri congruenti con le finalità del piano e di buone pratiche, quali ad esempio le soluzioni tecniche messe in atto in Italia e all'estero per il superamento delle barriere architettoniche. Il sito si rivolge a diverse categorie di utenti, che quindi i membri del personale dei comuni toscani, i membri di altri enti pubblici, agli studiosi, ai tecnici, ai progettisti e alle associazioni di disabili. Grazie a Laura Tesi, a risentirci. Buongiorno a tutti, a presto. Vi ricordo che il sito è pianiaccessibilità.it, non c'è l'accento sulla ovviamente. Vi ricordo anche che Ferribot nella nuova edizione va in onda alle 6.55 di sabato, replica alle 13.55 per gli appuntamenti del weekend, la domenica alle 6.55 e alle 14 per gli appuntamenti della settimana. È tutto per questa edizione, vi raccomando di scrivere a ferribot@radio24.it per segnalare attività di economia sociale. Grazie a Danita Panizia in redazione e a Peter Bescapè in regia.